Dialogo undicesimo. Raccontò Abu Dhar: mi recai dall'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bian gloria, e gli dissi: dammi un consiglio. Mi disse: ti consiglio di temere Allah, poiché il timore di Allah è l'ornamento più bello di ogni tua azione. Gli dissi: dammi di più. Mi disse: recita il Corano e ricorda Allah, il gloriosissimo, l'onnipotente, poiché questo è il mezzo per essere ricordato in cielo ed è luce per te su questa terra. Gli dissi: dammi di più. Mi disse: sta lungamente in silenzio, serve a tenere a bada Satana e ti è di sostegno nella pratica della religione. Gli dissi: dammi di più. Mi disse: non ridere molto, perché il molto ridere uccide il cuore e toglie la luce dal volto. Gli dissi: dammi di più. Mi disse: di sempre la verità, anche se è amara. Gli dissi: dammi di più. Mi disse: quando, per ciò che avrai fatto per la causa di Allah, sarai calunniato, non temere, e lascia che quello che tu sai di te stesso ti difenda dalle calunnie degli altri.